La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Sto per leggere una lettera che non è di oggi, l'ho ricevuta molto tempo fa. Allora rispondevo alla posta sul settimanale Amica ed è stata scritta quando la scienza era molto più indietro di adesso nella cura del cancro. Allora non si guariva e quasi sempre la diagnosi era già una condanna. Sto per morire e rischio di morire nell'odio. Ho il cancro, mi sono ammalato a 70 anni, nessuno me l'ha detto. Perché? 4 anni di torture, sotterfugi, lacrime di nascosto, spese, menzogne. Mai più un momento d'amore vero con nessuno, perché di mezzo sempre quella bugia. La moglie, i figli, il medico, tutti d'accordo. Ho vissuto da topo gli ultimi anni della mia vita, incanaglito dalla certezza della guarigione, mentre m'avessero detto la verità. In 4 anni si fa in tempo a rinascere. Ho sempre sognato di organizzare la mia fine. Avevo tanti conti in sospeso, tante cattive azioni da riparare, mie e degli altri, tante curiosità. E invece l'ho dovuto sapere qua in ospedale 2 giorni fa da una suora pietosa che me l'ha detto perché io possa stare almeno un istante davanti alla mia morte come un uomo sta davanti a sua madre. Ma loro non l'hanno detto e io maledico mia figlia Viola che non ha saputo dirmi «Papà, hai il cancro», come si dice a un fidanzato «Ti amo». Io muoio impreparato, maledicendo ogni tutela e questo mondo che è diventato tanto disonesto da non riconoscere più a un uomo nemmeno il diritto di misurarsi con la propria morte. E in questa lettera del padre disperato c'è una cosa che vale per ogni tempo, ovvero il disamore di chi decide per un altro e gli tiene nascosta la verità sulla cosa più importante, che il suo tempo sta per scadere. Perché la figlia gli ha mentito? Perché non lo amava abbastanza da condividere quel peso con lui, non lo amava abbastanza da far fronte insieme alla prossimità della fine. C'è poi chi preferisce non sapere e ha cura di avvertirne le persone care. Se mi succede qualcosa, lasciatemi nell'ignoranza. Ma io la penso come quel padre, premesso che il mio ideale è la morte nel sonno. Ma se questa grazia non è data, troverei imperdonabile essere defraudata dell'ultima libertà. Il congedo dagli affetti, dalle cose pratiche, essere assolta da qualcuno o assolvere qualcun altro, o magari no, decidere di morire odiando. E soprattutto gestire il tempo, vivere liberamente le visioni, le intuizioni, i terrori, anche dell'ultimo tempo, per correre fino in fondo la mia strada umana. Per questo oggi vorrei parlarvi di un importante classico che parla di questo, il famosissimo romanzo breve di Tolstoi, La morte di Ivan Ilich. La guardiana del faro. La morte di Ivan Ilich di Tolstoi è la storia di un uomo qualunque che, come tanti, è vissuto per apparenza e quindi ha condotto una vita apparente, che ha lavorato per la carriera ed è vissuto, come scrive Tolstoi, piacevolmente e correttamente, cioè invano. Si è sposato per convenienza, con una moglie che gli è sempre rimasta estranea, e lui a lei, facendogli figli anche loro estranei, anche loro educati nella forma. Vi leggerò dei brani dall'edizione Naudi del 1977, tradotta da Agostino Villa. La morte di Ivan Ilich è la storia di un perfetto mediocre, non perché non sia un genio, nessuno è mediocre se ha una coscienza, mediocre perché non ha mai affrontato la vita e non sa affrontare la morte che tanto fa paura a chi è inutile. Il libro è un potente sermone. Come dice nella prefazione Carla Strada Janovic, quando lui nella tremenda solitudine della malattia si trova solo ed è costretto a riflettere. E la visione retrospettiva della sua vita è la sua prima vita. Non ne ha mai avuta una finora, perché non ha mai capito nulla. Nella prima versione del libro Ivan Ilic parlava in prima persona nel diario e scriveva: «È la sesta notte che non dormo, e non per le sofferenze fisiche, ma per quelle mentali, insopportabili». Menzogna, menzogna, menzogna. Tutto intorno a me è menzogna. Mia moglie è menzogna. I miei figli sono menzogna. Io stesso sono menzogna. Non si può. Non si può vivere come ho vissuto io e come tutti noi viviamo. Tolstoj è spietato nel descrivere la specie umana, anzi è proprio maligno verso i suoi simili. Tolstoj non si fa illusioni perché conosce se stesso e ogni sua accusa è anche una confessione. E questo breve romanzo, La morte di Ivan Ilic, comincia con una riunione al Palazzo di Giustizia dove lui lavorava e nel momento in cui arriva la notizia della morte del consigliere di corte d'appello Ivan Ilic e i presenti, tutti i colleghi in ottimi rapporti col defunto, che se ne infischiavano di lui come lui di loro, con le facce tristi segretamente pensano: meno male, si è liberato un posto. Pensano: cosa ne viene a me? Cosa mi cambia? Cosa ci perdo? Cosa ci guadagno? Perché a noi oggi, contemporanei, ci pare di vivere nel momento più cinico della storia, ma l'uomo non ha aspettato l'era telematica per diventare malvagio. E questi signori giudici, consiglieri, avvocati, così civili, così eleganti nei loro cravattini, nelle parole di Tolstoj diventano un branco di sciacalli a coda ritta attorno alla carcassa. Il suo posto non era ancora stato occupato, ma si faceva il calcolo che in caso di morte Alexeyev sarebbe stato destinato a quel posto e di rimbalzo al posto di Alexeyev o Vinnikov oppure Stabel. Ora otterrò, speriamo, il posto di Stabel o di Vinnikov, pensò Fyodor Vasilievich. Da un pezzo me l'hanno promesso e questa promozione significa per me 800 rubli d'aumento oltre l'indennità di cancelleria. Tolstoj va oltre, va anche a pensieri ancora più inconfessabili. A parte i calcoli e gli eventuali miglioramenti di carriera, il fatto stesso della morte di uno stretto conoscente provocò in tutti quelli che l'apprendevano, come sempre avviene, quel certo senso di gioia. È toccata a lui e non a me. Com'è il mondo? È morto. Ma io, ecco qua, niente. Pensava o sentiva ciascuno. I conoscenti più intimi, i cosiddetti amici di Ivan Ilic, pensavano per giunta ai noiosissimi doveri di convenienza e alla visita di condoglianze alla vedova. Piotr Ivanovich, rinunciando alla siesta, indossò il frac e si avviò all'abitazione di Ivan Ilic. Arrivando a casa di Ivan Ilic, lui incontra un conoscente, un certo Schwarz, il quale si fermò alla vista del sopravveniente e gli strizzò l'occhio, come per dire: non ho proprio saputo fare il nostro Ivan Ilic, io, voi e un altro paio di maniche. E Schwarz, serrando serio le labbra, mentre lo sguardo gli rideva, indicò a Piotr Ivanovich la camera ardente. E Piotr Ivanovich è imbarazzato, non sa che fare, quando non si soffre, quando non si sente niente, è tutta forma, è tutto imbarazzo. D'una cosa era certo, che farsi il segno della croce in casi simili non guasta mai. E intanto nota un giovane contadino, dato che si sta già diffondendo un odore non piacevole, col suo passo leggero andava spandendo non so che sul pavimento. Attenti a questo personaggio, Gerasim, il giovane contadino, è l'unico che si salvi e che salva. Poi Piotr Ivanovich va a fare la visita di condoglianze alla vedova. È l'incontro di due che stanno facendo entrambi la commedia. E quindi si trova in questo salottino con Praskovia Fyodorovna, donna di modesta statura, grassa, slargata sia piramide, vestita tutta di nero, col crepe da lutto che ricopriva la testa. Questo crepe sarà poi importante nell'incontro. Perché al di là di queste parole formali che si scambiano, c'è una scena da farsa, in quanto lei lo fa sedere in un puff che però ha le molle guaste, quindi lo manda sopra e sotto, gli fa fare una specie di balletto molto indecoroso per la situazione. Quanto lei si impigliò col crepe nero nella sua nera mantiglia in un frastaglio del tavolo. Piotr Ivanovich si sollevò a mezzo per disimpigliarle subito. Liberato dal suo peso, il puff incominciò sotto di lui a sommuoversi e a spingerlo in su. La vedova si fece da sola a disimpigliare il suo crepe e lui si risedette schiacciando sotto di sé il puff ribelle. La donna non era riuscita a disimpigliarsi del tutto e allora Piotr Ivanovich tornò a sollevarsi e il puff tornò a ribellarsi. Quindi c'è questo balletto, lui che si alza ma si risiede, il crepe che si toglie che non si toglie. E già questo piccolo incidente smaschera la loro insincerità. La vedova vuole sapere soltanto quanti soldi le verranno da questa morte. E lui vuole soltanto liberarsi presto per andare a giocare a carte con gli amici. E la vedova parla delle sofferenze di Ivan Ilyich, svelando tutto il suo assoluto disamore, perché non parla delle sofferenze di Ivan, parla delle proprie. «Ha molto sofferto?» domandò Piotr Ivanovich. «Ah, terribilmente. Le ultime 3 ore non ha mai cessato di gridare. Era una cosa intollerabile. Io non riesco a capire come avrò fatto a sopportare una cosa simile. Attraverso 3 porte si sentiva lo stesso. Ah, quante ne ho passate!» Il parente che non ama e che ha il monopolio del dolore. E lui ascolta questa storia e mentre lei pensa a se stessa, anche lui pensa a sé. Gliene venne una certa paura per se stesso e incominciò a domandare con vivo interesse i vari particolari della fine di Ivan Ilyich, quasi che la morte fosse un incidente di tal natura da confarsi unicamente a Ivan Ilyich, non già in nessun modo a lui. Ma non c'è verso, perché tanto la vedova continua a parlare soltanto di sé. E gli domanda appunto in che modo, in seguito alla morte del marito, si potesse cavar danaro dall'erario. Poi arrivano i figli, che chiaramente se ne infischiano del padre, e comincia qui la storia a ritroso di Ivan Ilyich. La guardiana del faro. La storia di Ivan Ilyich era stata semplice e comune quanto mai, e quanto mai tremenda. È uno che si è impiegato in posti fittizi e tutt'altro che fittizie migliaia di rubli, dalle 6 alle 10. Tale era stato il consigliere segreto, inutile membro di parecchie inutili istituzioni, Ilia Yefimovich Galobin. E qui parla della sua ascesa di uomo che non ha sogni, salvo quella di beccarsi più stipendio che può e di avere un ruolo importante. Non era mai stato un adulatore, né da ragazzo né da adulto, ma fin dagli anni più teneri, come una mosca attratta dalla luce, così distinto sarà sentito attratto verso quelli che occupano posizioni superiori. E quindi fa la sua carriera inutile. Si occupa soprattutto delle sette religiose, un argomento che stava molto a cuore a Tolstoi, che si era invece fortemente impegnato e anche con molta efficacia per difendere le minoranze religiose dalle persecuzioni dello Stato e della Chiesa ortodossa. Quindi ha fatto anche del male, ma spensieratamente, perché non ha pensieri. A lui interessa soltanto l'esercizio del potere e quindi diventerà giudice istruttore, in cui si toglie le soddisfazioni del potere, che non sempre sono di umiliare. A lui piaceva trattare con la massima affabilità, quasi familiarmente, codeste persone che erano le sue dipendenze. Gli piaceva dare a sentire che, ecco, lui, che avrebbe potuto schiacciarli, li trattava amichevolmente, così alla buona. Gente di questa fatta allora non ce n'era molta, si diceva da solo. Da giudice istruttore, Ivan Illich sentiva che tutti senza eccezione, fino ai più imponenti pezzi grossi, tutti stavano in mano sua. Non che Ivan Illich abusasse mai di codesta sua autorità, ma la consapevolezza di una tale autorità costituivano per lui l'interesse e l'attrazione maggiore delle sue nuove funzioni. Sua vita cominciava ad assestarsi in modo assai piacevole e corretto. Gioca molto a whist e così, in modo assai piacevole, comincia anche il fidanzamento con Praskovia Fyodorovna. Tutti e due se ne fischiano l'uno dell'altro, però lei è signorina, si vuole sposare. Lui è giovanotto, ha una bella posizione, si vuole sposare anche lui. E quindi si sposa, come dice Tolstoi, per essere comme il faut, ovvero come il mondo vuole e come si vorrebbe lui, perché è un conformista perfetto, non ha mai pensato che le cose possono essere diverse. Quindi lei si non innamora di lui si non innamora di lei e si sposano. Lei ha portato anche un modesto capitaletto, quindi tutto procede piacevolmente e correttamente. Ma poi, e questo è un altro tema molto importante in Tolstoi, si rivela ben presto l'inferno del matrimonio. La moglie rimane incinta e fin dai primi mesi della gravidanza ecco apparire un non so che di nuovo, di penoso e di contrario alla correttezza. La moglie diventa gelosissima e gli faceva spiacevolissime, triviali scenate. Lo redarguiva anche con parole grossolane. E lui non fa che scappare, come faceva anche Tolstoi, che scappava sempre dalla moglie. E lei continua a fare queste scenate, risoluta a non smettere finché lui non si sottomettesse, vale a dire non restasse lì in casa ad annoiarsi, tale quale a lei, da venirne a Ivan Illich un senso d'orrore. Cioè non è che è finito l'amore o che si è rivelato non esserci. C'è proprio il disgusto tra questi due. E quindi lui sta sempre in ufficio e si era via via attaccato di più al suo ufficio e si era fatto più avido d'onori che non fosse stato finora, perché lui alla vita familiare chiedeva soltanto quelle comodità d'una cucina casalinga, d'una donna che pensasse all'andamento di casa. Invece lei vuole esistere e questo non glielo perdona. Gli anni erano trascorsi, la moglie era diventata sempre più litigiosa e collerica, ma lui ormai ha imparato come trattarla, cioè non la vede mai, praticamente sta sempre fuori. E cambiano anche città. C'è uno scatto di carriera, lui riceve uno stipendio molto più alto, ha più potere e soprattutto comprano una casa nuova. E lui con questa casa nuova è preso da una furia, come se invece di cambiare casa dovesse cambiare vita. Anche la moglie, adesso che ci sono più soldi, è diventata più allegra e lo scopo di Ivan Illich adesso è avere anche una moglie, un matrimonio, dei figli, tutto come il fo, che anche la casa sia come il fo. E in assenza della moglie, in quanto prepara lui la casa per la famiglia, si dedica completamente alla sua opera, che è questa casa. Nel prender sonno gli si affacciava dinanzi la sala da pranzo, come sarebbe stata. Invece di sognare una fanciulla o chissà quale impresa eroica, lui sogna la sala da pranzo. Lo rallegrava l'idea di come avrebbe sbalordito la moglie e i figli. E qui succede qualcosa, in queste giornate così con Milfo, per preparare una casa che esprima anche la loro ascesa sociale. Un giorno, arrampicatosi sulla scaletta per indicare al tappezziere, che non capiva in che modo voleva il drappeggio, aveva perso l'equilibrio ed era caduto, ma vigoroso e agile com'era, s'era trattenuto. e solo col fianco aveva dato un colpo contro la maniglia della finestra. E presto tutto era passato. E qui descrive la casa impietosamente lui, questo grande aristocratico che era Tolstoj, descrive la casa di questo impiegato a rivista con molto disprezzo. In realtà si trattava, né più né meno, di ciò che hanno in casa le persone non proprio ricche, ma tali che vogliono rassomigliare ai ricchi e quindi non fanno che rassomigliarsi tra loro. Damaschi, ebano, fiori, tappeti e bronzi, un misto di cupo e di splendente. Tutto ciò, insomma, che tutte le persone di un certo genere fanno per assomigliare a tutte le persone di un altro genere. E comunque questo colpo che lui ha ricevuto al fianco sarà il colpo fatale. Tolstoj lo fa uccidere da una sala da pranzo, dall'ambizione di una casa come il fo per sbalordire i colleghi. E poi, quando non ci fu più nulla da sistemare, lui venne preso da un senso di vuoto e allora questo teatro vuoto va riempito di personaggi, va riempito di un pubblico e quindi cominciano a ricevere. Però la casa si sciupa e allora ogni macchia su una tovaglia, su un damasco, un cordone rotto alle tende lo irritavano a fondo. Aveva tanto lavorato per mettere tutto in ordine che ogni guasto gli faceva male. Ed è come il simbolo del guasto molto grosso che invece si è creato nel suo organismo e che lo porterà alla morte. Quindi la casa favorisce l'ascesa sociale, invitano solo le persone importanti o utili per la carriera. E nell'atteggiamento di fronte al circolo dei conoscenti, la moglie e la figlia erano perfettamente d'accordo e senza bisogno di consultarsi a vicenda, all'unisono allontanavano e sgomberavano il campo dei vari amici e parenti sudicioni che venivano a svolazzare pieni di tenerezze dentro questo loro salotto con tanto di vasi giapponesi a parete. Ben presto quei sudicioni, che pretendevano intimi, non vennero a svolazzarci più e in casa Golovin restò soltanto la società più scelta. Sudicioni intendono i parenti poveri, quelli che non sono degni di stare fra questi damaschi e ebani. Intanto però Ivan Ilic sta male. È sempre di cattivo umore, ha un cattivo sapore in bocca e marito e moglie cominciarono sempre più spesso a litigare tra loro e in breve dileguarono la leggerezza e la piacevolezza e a stento si reggeva in piedi la correttezza da sola. Le scenate ripresero con la frequenza di un tempo. Di nuovo lui scappa di casa, da questa bella casa nuova che però è di nuovo un inferno, e la moglie prende a odiarlo e a desiderare che lui muoia. Desidera fortemente che quest'uomo muoia. E lui infatti sta male. Il medico di casa non ci capisce niente. Tolstoj disprezzava i medici come Molière, li considerava soltanto degli assassini. La conclusione era che l'andava male e che al dottore e magari a tutti gli altri di questa cosa non importava un bel nulla, ma a lui sì. E quindi lui diventa anche molto indigesto in casa, perché vorrebbe un po' di interesse sulla sua malattia, ma tutti dicono ma non è niente, e vanno a teatro, e vanno a trovare gli amici, e lui si rincantuccia sempre più in se stesso, gli altri sono infastiditi perché non sta facendo il gioco sociale. Però lui sente che c'è qualcosa che non va, sente che c'è qualcosa di grave. Impossibile ingannar se stesso. Qualche cosa di strano, di nuovo, di così importante, che mai nulla di più importante c'era stato nella vita di Ivan Ilic, si stava compiendo in lui. E lui solo ne era consapevole. Tutti quelli che gli stavano intorno non se ne rendevano o non volevano rendersene conto e pensavano che ogni cosa tirasse avanti né più né meno che come prima. Le persone di famiglia, per prime la moglie e la figlia, le quali si trovavano ormai all'apogeo della vita mondana, non capivano nulla e restavano contrariate dal fatto che lui fosse così di malumore, così esigente, quasi che fosse sua la colpa. Insomma, è diventato un impaccio per la vita sociale. La moglie di Ivan Ilic pensava che tale malattia era tutto un nuovo dispetto fatto da lui per contrariarla. E lui si trova solo. Lui sente la morte, anche se ancora non le ha dato un nome, senza nemmeno una persona che lo intendesse e che avesse pietà di lui. I dottori chiacchierano, i familiari fanno finta di niente e lui comincia a capire che sta morendo. Perché ingannar se stessi? Forse non è chiaro a tutti, a eccezione di me, che io sto morendo e che la questione è soltanto nel numero delle settimane e dei giorni. Subito adesso, forse. Un tempo era la luce, ora è il buio. Un tempo sono stato qui, ora invece andrò là. Dove? Fu invaso da un gelo. Il respiro gli si arrestò. La guardiana del faro. Questa è l'ultima parte del racconto e della lettura parziale del romanzo di Tolstoj, La morte di Ivan Ilic, che racconta la storia di quest'uomo che è sempre vissuto piacevolmente e correttamente, ovvero rimuovendo sia la vita che la morte. C'è una serata musicale a casa sua. La moglie è riuscita ad avere a casa un grande divo del canto e quindi tutti si preparano, sono in gingheri. Lui pensa: io non ci sarò più. Che cosa dunque ci sarà ancora? Niente ci sarà più. Qui c'è un brutale proverbio contadino dalle mie parti, in Umbria, che dice: morto io, morti tutti. Ed è quello che pensa Ivan Ilic. Sì, la morte. E loro non ne sanno niente e non vogliono saperne e non sentono compassione. Loro suonano, gli giungevano lontani gorgheggi e ritornelli. Loro non se ne danno pensiero. Ma anch'essi morranno. E intanto si divertono. Bestie. Il rancore lo soffocava. Ma come può essere che tutti, sempre, siano destinati a questo tremendo terrore? Arriva la moglie. Cos'hai, Jean? Niente. Egli lo odiò con tutte le forze dell'anima, in quell'istante in cui lo baciava, e dovette fare uno sforzo per non respingerla. Vedeva chiaro Ivan Ilic che stava morendo, ed era immerso in una disperazione senza tregua. Quell'esempio di sillogismo: Caio è un uomo, gli uomini sono mortali, dunque Caio è mortale. Gli era parso per tutta la vita giustissimo quanto a Caio, ma non davvero quanto a se stesso. E pensa anche come è successo. E la verità sarebbe che qui, salendo ad accomodare questa tenda, io, come all'assalto di una fortezza, ho perduto la vita. Possibile mai? Com'è stupido. Non può essere questo. Non può essere. Ma è. E quando è chiaro che lui è molto malato, capisce che i medici, gli amici, i familiari non vedono l'ora che lui sgomberi il campo, cioè che si sbrighi a morire. E lui dorme sempre meno, gli danno dell'oppio, gli fanno l'iniezione di morfina. E il grande tormento di quest'uomo è che nessuno gli vuol bene, perché nessuno vuole condividere la sua morte. E quindi minimizzano continuamente. E poi arrivano anche le umiliazioni della malattia. Anche per agevolargli l'evacuazione furono adottati speciali accorgimenti, e ogni volta questo era un tormento. Tormento della sporcizia, della sconvenienza, del cattivo odore, della coscienza che un'altra persona dovesse prender parte a una cosa simile. Ed ecco che finalmente, perfino nei romanzi di Tolstoj, c'è un momento di clemenza e arriva un angelo. Arriva un uomo buono, uno che ammette che sta morendo, uno che non gli mente, che con semplicità si prenderà su di sé la sua parte della morte di Ivan Ilic. E proprio in questa che era la cosa, ovvero questa della evacuazione, in questa cosa che era la più sgradevole di tutte, ecco apparire a Ivan Ilic un conforto. Lì da lui a portar via veniva sempre il contadino addetto ai servizi, Gerasim. Era Gerasim un fresco, pulito, giovane contadino, sempre allegro, schietto, sempre pulitamente vestito alla russa, che seguiva quella repellente faccenda. Una volta, sollevandosi dal vaso e mancandogli la forza di tirar su i calzoni, s'era abbandonato sulla poltrona molle e con orrore posava lo sguardo sulle nudità delle sue cosce svigorite. Entrò Gerasim con gli stivaloni massicci, spandendo attorno un piacevole sentore di fresca aria invernale. Gerasim, col suo passo leggero e vigoroso, con le maniche rimboccate sulle nude, vigorose giovani braccia, e senza alzare gli occhi a Ivan Ilic, tenendo a freno per non ferire il malato la gioia di vivere che gli brillava in viso, s'accostò al vaso. «Grasin», disse con voce debole Ivan Ilic, «penso che per te sarà una cosa spiacevole. Scusami. Per carità, padrone. O perché mai non dovrei darmi da fare? È roba da malati la vostra». Gerasim s'accostò ancora, con le braccia vigorose e con quella stessa leggerezza con cui camminava, lo circondò, lo sollevò destramente, morbidamente, e con una mano lo sosteneva ritto, mentre con l'altra tirava sui calzoni. Poi fece per rimetterlo a sedere, ma Ivan Ilic lo pregò che lo conducesse al divano. «Grazie, come sei agile, bravo, in tutto quello che fai. Senti, accostami per favore quella sedia, mi dà sollievo tenere le gambe alte». E allora Gerasim porta la sedia, gli solleva le gambe e gli mette sulle spalle. E da qui c'è questo rito di pacificazione che sarà poi la grande ricompensa di Ivan Ilic. Ogni volta che Gerasim arriva, gli prende i piedi, se li mette sulle spalle e lui ne viene molto sollevato. Gerasim faceva tutto di buona voglia, semplicemente, e con una bontà che commuoveva Ivan Ilic. La buona salute, il vigore, il brio della vita, in tutti gli altri ferivano Ivan Ilic. Soltanto in Gerasim non lo amareggiavano, ma lo tranquillizzavano, perché il più gran tormento di Ivan Ilic era la menzogna. Quella menzogna in cui tutti chissà perché s'accordavano, secondo la quale lui, anziché avviato alla morte, era semplicemente malato. Menzogna, menzogna e nient'altro. Questa menzogna che gli recitavano in faccia alla vigilia della morte e che avrebbe dovuto abbassare il terribile, solenne atto della sua morte a livello di tutte le loro visite, tende, antipasti di storione. C'era soltanto Gerasim che comprendesse la sua situazione, che lo compatisse. Per questo Ivan Ilic si sentiva bene soltanto con lui. Si sentiva bene quando Gerasim, a volte per intere nottate, gli sosteneva alte le gambe e rifiutava ad andarsene a dormire dicendogli: «Voi non vi date pensiero, Ivan Ilic, mi caverò il sonno più tardi». O quando, bruscamente passando al tu, gli ribatteva: «Manco male tu non fossi malato, ma una volta che stai così, perché non ti dovrei assistere?» Il solo Gerasim non gli mentiva. Si intendeva, era tutto, che egli solo capiva di che si trattasse e non giudicava necessario nasconderlo, ma semplicemente compativa il rifinito, debole padrone e gli diceva: «Tutti quanti morremo, perché non ti dovrei assistere?» E sperava che anche per lui qualcuno, venuto il tempo suo, si sarebbe sobbarcato allo stesso lavoro. La cosa che Ivan Ilic desiderava più di tutte era, come un bimbo malato, che qualcuno lo compatisse. Sentiva un desiderio che lo accarezzassero, che lo baciassero, che piangessero un po' su di lui, a quel modo che si vezzeggiano e si consolano i bambini. E nei suoi rapporti con Gerasim v'era appunto qualcosa di simile a questo, la grande consolazione della verità che poi si accompagna al voler bene. E mentre ama Gerasim, continua a detestare sempre la moglie che fa della mondanità con questi dottori ben vestiti, che arriva nella sua stanza sempre abbigliata da sera. Il dottore, così rannicchiato in ginocchio sopra il divano, stava dando un'ultima bussatina alle spalle, intende, quando sfrusciò di fuori dalla stanza l'abito di seta di Praskovia e si udì il suo rimprovero a Piotr che non l'avessero avvisata della venuta del dottore. Quando entrò, baciò il marito, baciò il dottore. Ivan Ilic la guarda, la squadra da capo a piedi, e tutto tra sé le rimprovera: la bianchezza delle carni, la pienezza soffice della persona, la lindura delle mani, del collo e il lucido di quei capelli e il brillio di quegli occhi pieni di vita. Con tutte le forze dell'anima egli la odia e il suo contatto lo fa soffrire, tant'è l'afflusso d'odio che gli provoca contro di lei. Beh, qui il re dei misogini si sfrena E poi viene anche la figlia. Sopravvenne la figlia, svestita, cioè con un abito alla moda, molto scollata, vuol dire, col suo giovane corpo denudato, quel corpo che a lui dava tante sofferenze. E lei lo metteva in mostra, vigorosa, sana. Si vedeva chiaro che era innamorata e intollerante del male, delle sofferenze, della morte. Tutte cose che facevano ostacolo alla sua felicità. Arriva anche un altro amico, tutto arricciolato. Quando costoro furono usciti, Ivan Ilic ebbe l'impressione di sentire un qualche sollievo. La menzogna non c'era più. Era uscita con loro, ma il dolore rimaneva. E disse, mandate qui Gerasim. E Gerasim gli sta vicino nei momenti di crisi terribile di quest'uomo che capisce di essere vissuto vanamente, inutilmente, di aver fatto una finta vita. Piangeva sull'impotenza sua, sulla sua solitudine orrenda, sulla crudeltà di Dio, sull'assenza di Dio. E poi ecco, viene il momento della morte. Possibile mai che davvero sia la morte? E una voce interna rispondeva, sì, è la morte. Perché questi patimenti? E la voce rispondeva, ma così, senza un perché. Arriva la moglie, ricomincia il discorso sulle medicine e guardando lo sguardo del marito ammutolisce. Tale un rancore proprio contro di lei si esprimeva in quello sguardo. Per amor di Dio, lasciami morire in pace, furono le parole di lui. E in queste persone che così mondanamente vengono a trovarlo, che pretendono di avere dei legami affettivi con lui che non esistono, in costoro egli vedeva se stesso, tutto ciò di cui era vissuto, e vedeva chiaro che tutto questo era fuori strada. Era tutto un orribile, enorme inganno, dal quale restavano nascoste, a un tempo, la vita e la morte. Cercava il suo antico terrore della morte e non lo trovava più. Dov'era essa? Quale morte? Nessun terrore c'era più, perché anche la morte non c'era più. Al posto della morte c'era la luce. Ecco allora com'è, ad alta voce disse d'improvviso. Che esultanza! Finito, disse su di lui una voce. Egli percepì quella parola e la ripeté nel suo intimo. Finita la morte, disse tra sé. Essa non c'è più. Stese le membra e morì. Con un atto di caritatevole diretto a Ivan Ilic ma anche a se stesso, Tolstoi fa morire Ivan Ilic nella luce, con la consolazione di quel fanciullo gentile che lo tratta in modo naturale. E quando ho scritto Sonata a Tolstoi, questo romanzo su Tolstoi, uscito da Baldini Castoldi e Dalai nel 2010, pur trattando come si meritava quell'uomo magnifico e tremendo, facendogli insieme un torto e un omaggio, e raccontando il suo epistolario e i suoi diari, però ho avuto anch'io questo atto di clemenza e gli ho messo accanto un servo pietoso chiamato Gerasim che gli starà accanto fino all'ultimo. E anche a Tolstoi ha voluto dare la consolazione con cui aveva consolato il suo Ivan Ilic, il suo fratello spiritualmente deforme. Lo voglio anch'io, Gerasim. Altro che la clinica svizzera Dignitas, dove ti aiutano a morire, dove c'è questo, come si chiama oggi, questo suicidio assistito, anch'io vorrei morire tra le braccia di Gerasim, che mi dice, toccherà a tutti, perché non dovrei assistervi, toccherà anche a me. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.